Letture di Radio 24. Nell'eventualità di una scissione dell'euro e di un ritorno per alcuni paesi alle antiche valute, è importante tenere d'occhio il prefisso del codice stampato sulle banconote per identificare quelle che avranno sempre valore pieno. Le banconote della moneta unica europea sono notoriamente emesse dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione Europea e non dalla Banca Centrale Europea, BCE, e sono identificate da 17 prefissi differenti: X per la Germania, Y per la Grecia, S per l'Italia, eccetera. Questo non è un fatto secondario. Il consulente Neil Record, fondatore della società Record Currency Management, identifica le banconote X come la soluzione per definire quali rettangoli di carta avranno sempre valore pieno e quali dovranno invece essere fisicamente convertiti in una nuova eventuale valuta. A differenza della determinazione geografica, che prevede che a essere convertite siano tutte le banconote che si trovano fisicamente in un determinato territorio, Record suggerisce di fare riferimento al prefisso riportato su ogni foglio di euro, e in particolare di tenere stretti a sé gli euro X per cambiare solo gli altri. Una selezione che ridurrebbe al minimo le perdite per i cittadini, oltre a rendere il processo di conversione più ordinato. Il giorno dopo la scissione, i cittadini greci o quelli di ogni altro paese in uscita avrebbero in tasca banconote con valore indefinito o nullo. Il consulente prevede un vero e proprio processo di cernita. Da un lato saranno accantonate le banconote X, che avranno pieno valore come euro. Dall'altro, le Y o le S, che potranno essere convertite nella nuova valuta presso le banche o shops specializzati. Una opzione che, secondo Record, porterebbe quasi a zero le perdite per i cittadini, in quanto il valore di ogni banconota X rispetto alla nuova valuta sarà fisso. La definizione di questa conversione, anche prima della scissione dell'euro, potrebbe inoltre ridurre i flussi monetari attualmente in transito dalla Grecia e più in generale dall'Europa meridionale verso la Germania, dove le banche del paese sono inondate dall'arrivo di depositi privati. Flussi a doppia direzione, in quanto i soldi fanno immediatamente rotta sulla Grecia sotto forma degli aiuti a breve termine concessi al paese in crisi dalla BCE e dagli altri governi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Chiara Albanese Alla ricerca dell'Euro X, dal numero di giugno-luglio della rivista Il.